storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera. Buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio, siamo arrivati all'ultima domenica di aprile. Siamo sempre il tempus fugit, dicevamo. Ah, mamma mia. E poi arriverà maggio, il mese delle rose. Speriamo che non sia il mese delle piogge come è stato aprile. Ma speriamo. Così. Bene, dai. Va bene. Prima parli tu un po', Antonio, e poi presentiamo. Stasera non abbiamo un ospite virtuale, abbiamo un ospite proprio qui in studio. Vabbè dai, lo diciamo subito, che è la signora Maria Marino, detta Mariella, poetessa che ha scritto poesie, racconti. E allora noi la salutiamo. Buonasera Mariella. Buonasera Mariella. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuta in questa trasmissione. Grazie, grazie a voi. Ecco, poi daremo la parola a te, parleremo noi, leggeremo tutte le tue cosine, quello che riusciamo a fare insomma. Bene. Allora Antonio. Allora un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici, vicini e lontani, di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro 346 26 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione per i nostri amici più tecnologici, senza dimenticare un saluto al nostro regista. Come sempre. Bene, allora prima di iniziare, di inoltrarci nelle scritti di Mariella, ci ascoltiamo una canzone che a me piace molto, non lo so, è del 1972. Vabbè, lo diciamo lo stesso, vai, anche se... Ed è intitolata Magari, cantata da Peppino Di Capri. Magari hai ragione tu, lasciamoli ai poeti i grandi amori. Magari hai ragione tu, la mia tristezza non ti basta più. In fondo non ho avuto mai sogno da dividere con te, eppure ci ho creduto, ho sbagliato ed ho perduto, ma non chiedo la rivincita tra noi. Magari hai ragione tu a vivere ogni giorno un'altra vita. Magari, come dici tu, i miei difetti sono le mie virtù. Ma è triste ripensare a noi e a cosa sono stato io per te. Un foglio accartocciato che tu hai letto ed hai gettato, una musica che ormai non canti più. Magari un giorno riderò della tua guerra, della mia sconfitta. Magari, o magari no. E quando, e se ti rivedrò, da grande attore io reciterò. Gli sguardi della gente, il mio orgoglio inconcludente, senza lacrime magari piangerò. Eccoci qua, Mariella, con te. Allora, Mariella, vediamo un po' così quel piccolo curriculum che mi hai mandato. Allora, Mariella Marino, Maria Marino per la verità, proprio il suo nome, nasce a Valmareno nel 1900 e tot, che è Valmareno, che è un piccolo paese tra le colline del Trevigiano. L'amore per la parola scritta, che coltiva fin dall'infanzia, si traduce in una produzione che predilige le forme della poesia e del racconto breve. Nel 2009 pubblica il volume Racconti per Adle Edizioni di Padova. Nel 2011 pubblica il suo primo libro di poesie Tutto il tempo per Edizioni del Leone di Spinea, diretta dal dottor Filli. Entrambi i libri sono stati presentati dall'Associazione di Promozione Sociale Se la Luna. La raccolta di poesie è stata presentata anche dal professor Paolo Ruffilli al Bistrò de Venise, poi dal Circolo Amici della Poesia di Treviso, che sarebbe il SIL, e presso il Clan Verdurin di San Pietro di Feletto, di Treviso, insomma, anche lui. Il volume di poesie è stato recensito sul portale Literari dalle tre critiche letterarie Flavia Lepre, Nicoletta Corsalini e Flavia Boldrini. Beh, diciamo anche qualche altra cosa di Mariella, ma quello lo facciamo dire a lei. Mariella, ci racconti un pochino così della tua vita, che cosa hai fatto di bello? Allora, la vita indipendentemente dalla scrittura, beh, non tante cose interessanti, comunque ho lavorato in due ambiti molto interessanti che mi hanno arricchito notevolmente. Il primo mio lavoro a 20 anni è stato all'Istituto per l'Infanzia della provincia di Treviso, dove ho fatto l'educatrice del tempo libero con bambini senza famiglia. Ovviamente tutti possono immaginare quanto sia stato un lavoro interessante, impegnativo e arricchente dal punto di vista umano. E poi sono stata un anno in Inghilterra, dove ho perfezionato la conoscenza della lingua inglese, e ritornando sono stata assunta da un mio ex insegnante perché era diventato deputato della Repubblica Italiana, l'onorevole Innocenti. Molti lo ricorderanno, immagino. Ecco. E ho fatto la sua segretaria per 5 anni, finché poi mi sono sposata. E era un lavoro troppo impegnativo per una persona che volesse seguire anche una famiglia, e quindi la mia esperienza lavorativa esterna alla casa è finita nel 76. E adesso fai... Sono in età di pensione, ma faccio comunque la casalinga e mi occupo ancora della mia famiglia, e ho sempre avuto questa passione appunto per la parola scritta. Sì. Diciamo che oltre alle bellissime poesie hai anche dei racconti stupendi. Sì. Comunque ne parleremo mano a mano nel proseguo della trasmissione. Cominciamo a leggere qualcosina, così per dare un saggio. Allora, siccome Antonio leggerà un racconto intitolato Gli alberi, o Alberi solo, come intitolato? Alberi. Alberi. Io leggerò prima una poesia che è intitolata invece Gli alberi. Gli alberi sono arrossiti per il vento d'autunno, come pure gote giovani, e tremolano piano come imbarazzati battiti di ciglia. Ed io non oso muovermi per non rompere il loro incanto. Alberi, il castagno, alto, solidamente piantato tra il limitare del sentiero e l'inizio della ripa assolata, poteva vedere dalle fronde possenti la valle davanti, oltre il bosco e le vigne, giù fino ai muri di sasso del paese, e volgendosi a nord scorgere tutte le chiome frondose fino al terminare dei boschi e l'ergersi verticale delle rocce, spezzate qua e là da mughi impavidi ed erbe tenaci di alta montagna. Lui, il castagno, nella sua solidità pareva dire: «Se mi state vicini, io vi proteggerò per sempre». I suoi larghi rami si protendevano da ogni lato, formando un enorme ombrello sotto il quale, facendo attenzione a non pungersi con i numerosi ricci caduti al suolo, si poteva sostare e riposare e perfino addormentarsi, ammirando, prima di chiudere gli occhi, la verde bellezza della sua maestosità quasi ferma nonostante le folate del vento. Dondolavano solo i pendagli chiari dei suoi semi dorati che potevano ricordare le decorazioni degli uomini sugli abeti a Natale. Donava abbondanti frutti ben protetti da spine e coriacei involucri che avevano sfamato per innumerevoli anni generazioni di abitanti pedemontani e a cui ora, pur fra tanta abbondanza, era rimasta la capacità di far contenti i bambini, non si sa se per il sapore o per l'odore buono e antico di fuoco acceso che si va mescolando a moderni odori cittadini nelle sere d'autunno a qualche crocicchio di strada. La vite invece non era mai cresciuta abbastanza e anche tirando il collo al massimo delle sue possibilità non riusciva a vedere lontano. Non era mai giunta ad avere un aspetto solenne, ma aveva conservato nei secoli un'aria contadina. Era una pianta sobria, anche se proprio dai suoi frutti veniva il colpevole di tante ubriacature. Le bastava poco spazio e uno strato sottile di terra povera risultava sufficiente alle sue radici, che sapevano trarre vita da ogni filino d'energia, persino dai sassi. I suoi grappoli erano belli, si riempivano di insetti ronzanti in danze senza tregua, attirati dal dolce dei chicchi per tutta la buona stagione. Abbarbicata alla parete in pietra secca della casetta e sostenuta da provvidi fili di ferro che la indirizzavano, poteva diventare anche lei riparo dal sole, verde ristoro sotto cui gli uomini amavano piazzare le loro tavole e panche e passare in compagnia ore conviviali, mai inquinate dalla malinconia. La gente, sotto l'intrico dei suoi sottili rami, pendenti grappoli e foglie, pareva trovare l'allegria. Il suo più grande difetto era non sapersi reggere da sola. Aveva tentato, chissà per quanti millenni, ma senza un aiuto, sapeva solo strisciare e cercare disperatamente il sole per dare vita e forza ai suoi grappoli, che tra le erbacce non avevano speranza di divenire. Ma appoggiata a qualcosa di solido, poteva dare il meglio di sé e nel suo abbraccio gentile non stritolava e non penetrava ogni anfratto senza remissione, come facevano le edere. Detestava essere scambiata per un'edera. Il fico era unito alla vite per atavici legami e antiche profezie. Da secoli si erano trovati insieme. Stessi terreni aridi e duri, stesso sole cocente, stesse umili scenografie, stessa abbondanza di dolci provvidenziali frutti da far cogliere. Il fico, però, era vanitoso. Protendeva i suoi larghi rami come grandi dita di una mano tesa verso gli altri spazi. Spesso, in bilico sulla ripa, aveva le radici molto più in alto della chioma, che tendeva a sud con ostinata tenacia a non guardare indietro. Studiava la valle che rotolava davanti a sé come a voler scivolare via lontano. Quando un suo ramo si spezzava, ne usciva latte, linfa vitale, come di silenzioso pianto. Aveva la capacità di dare molti frutti, ma raggiungerli era piuttosto difficile perché maturavano sempre troppo in alto e rimanevano pasto per i becchi ingordi. Chi si fosse arrampicato sui suoi rami apparentemente ospitali poteva andare incontro a pericolosi ruzzoloni perché, bizzoso come un puledro brado, poteva lasciarli spezzare all'improvviso senza scricchiolii premonitori e fracassare al suolo con fragore di schianto. Era l'albero più a sud. Girava le foglie verso il sole sognando la vastità della valle con fare serio e austero. La betulla danzava con allegria. Era nata per ballare con il vento, cresciuta alta e forte nel fusto ma attorniata da delicati ramoscelli che si piegavano flessuosi al più timido soffio d'aria. Le sue foglioline, permanentemente in movimento, ingiallivano presto e si staccavano volteggiando liete con risate argentine. Ricoprivano l'erba sottostante di mille coriandoli d'oro. Persino il suo tronco era allegro, l'unico albero con il tronco così bianco. Un boschetto di betulle dopo una nevicata e un incanto di piccoli rami sospesi. Non sognava altra terra. Lei era, come il castagno, di montagna. Stava bene al sole, ma non temeva il gelo degli inverni. durante i temporaloni estivi si inchinava al volere del vento senza offrire resistenza. Lo accompagnava con grazia e il suo lieto fogliame si lasciava scompigliare e disperdere felice nell'aria. Non offriva frutti, ma tra i suoi rami sottili frotte di cince trovavano minuscoli insetti e il loro gaio zufolio riempiva la valle. La betulla, agile e festosa femmina arborea, vibrava contenta sventolando i fazzolettini delle sue foglie in un addio senza fine. La sorte li aveva voluti vicini, anche se così diversi, forse perché così diversi. Bene, la betulla è tua figlia, vero? Hai indovinato. È il fico tuo figlio? Sì, infatti mi ha accusato di averlo trattato male. Bella sta questo abbinamento. Personificazione arborea. Sì, bello. Esatto. Bello. Tu cosa sei allora? Gesuina, immagina. Io ho bisogno di un uomo forte, quindi sono la vite. Sotto il castagno, robusto. Comunque sì, quello della betulla proprio... Anche se non l'avessi saputo avrei immaginato che, perché è molto, molto fresco, molto, molto bella, sì. Grazie. Ma questi racconti hai incominciato a scriverli tardi o hai mai detto che... Com'è che era 35 anni, che hai scritto 35 anni fa? La poesia, o racconto? La poesia, perché io le poesie le ho scritte fin da quando ho cominciato a saper scrivere. Proprio le primissime poesie, che qualcuna me ne è rimasta nei cassetti, hanno proprio la grafia di un bambino di 6-7 anni. E poi ho avuto dei periodi in cui ho smesso, non sempre ho scritto ovviamente con regolarità, però alla poesia sono sempre stata legata. Ho sempre letto molte poesie di altri e ho sempre amato anche scrivere. Qual è il poeta che, dei classici che prediligi? Ma non so se si può definire un classico perché è a cavallo tra la modernità e il mondo più antico, ma Cardarelli, Vincenzo. Anche a me piace Cardarelli. Anche a me piace tantissimo. Bene, allora adesso ci fermiamo un momentino per un'altra canzone e poi riprendiamo con te. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Giorgia, che è Di sole ed azzurro. Voi Eccoci di nuovo in studio. Allora Mariella, proseguiamo con la lettura di una poesia e di un altro racconto. Io come poesia ho scelto Settembre, una bella poesia d'amore. Amo le calde serate trafitte dai grilli e da fari ubriachi che svaniscono in lampi senza rumore. Niente più che ci inviti di un campo bagnato di luna, ove rapidi fruscii di canne ci rimandano la sete di nostre parole dense di promesse mai dette e che non sanno il dissolversi del tempo. Nella luce d'argento le mani tue bianche scorrono per ignoti sentieri verso incontri d'amore in cui, per un attimo, cercandosi le nostre anime si perdono per ritrovarsi in un respiro del vento, un rapido bacio, un pensiero di gratitudine che sale al cielo. Sotto Antonio? Il Merlo. Bene. Il paese quella mattina si era svegliato al fragore di tuoni brontolanti, scrosci di pioggia che schiaffeggiavano le imposte dei balconi e vento cattivo che scendeva dai monti cercando ostacoli da travolgere. Quando però spalancai gli scuri della mia finestra fui inaspettatamente accecata dalla piena luce di un sole in trionfo, reso più regale che mai dalla limpida aria pulita che avvolgeva il mio mondo. Era tempo di vacanze pasquali e a mezza mattina arrancavo in salita con due amichette su per l'imponente collina dominata dall'altero castello dei Conti B, il cui antichissimo feudo aveva per secoli governato le terre d'intorno e che in quegli anni restava quasi sempre chiuso e disabitato, poiché vi alloggiava in una casetta adiacente solo il guardiano giardiniere. La meta al castello era per noi bambini una delle più ghiotte, sia per l'intrico del ricco sottobosco in cui si potevano raccogliere fiori molto belli e frutti selvatici, sia per le alte piante su cui ci si poteva arrampicare e nascondere nei mille giochi che la nostra vivace fantasia ci suggeriva. La possente mole dell'enorme maniero ci si parava davanti emergendo dal verde, con le sue mura ricoperte di muschio e di edere rampicanti con solenne maestà. E scrutando tra le trame arrugginite di feritoie e finestrelle, la nostra immaginazione fioriva rigogliosa quanto la vegetazione che si abbarbicava tenace. Ad accrescere la nostra curiosità e la paura contribuivano i racconti uditi chissà quante volte in paese, che, come ogni narrazione popolare che si rispetti, ingigantivano e dilatavano i fatti nel tempo come in un'incontenibile alluvione. Eravamo convinti perciò di sentire spesso strani rumori provenienti dalle mura abbandonate e che giuravamo essere strascicar di catene o lamenti uscire dalle segrete che effettivamente esistevano in quanto, come ogni vecchio castello, anche questo ospitava delle tristi e buie prigioni. Sbirciando poi, strizzando gli occhi nel tentativo di penetrare l'oscurità attraverso le grate rugginose, assicuravamo di aver avuto orride visioni e ognuno di noi rincarava di volta in volta la dose della scoperta di ossa, teschi umani, vampiri penzolanti dai soffitti ammuffiti, nel tentativo di essere i più coraggiosi ed interessanti agli occhi dei nostri compagni di giochi. Fortunatamente nella mia memoria di tutto questo è rimasto solo un forte odore di umidità e la visione di qualche enorme e spessa ragnatela. Quella mattina, che volgeva ormai a mezzogiorno, ridiscendendo dal castello al paese, scivolai rovinosamente sul terreno ancora molto umido, sporcando non poco i pantaloni di tela azzurrina e graffiandomi gambe e mani, cosa che mi preoccupò ben conoscendo le reazioni di mia madre. I suoi rimbrotti mi risuonavano già nella mente quando mi distrasse un fremito, poi un pigolio molto vicino. Scrutando con le altre due bambine nel verde del fitto sottobosco, vedemmo un uccello marrone picchiettato di giallo. Era un giovane merlo che, appena fu toccato, iniziò a pigolare molto più energicamente, spalancando il becco e mostrando così una cavità color arancio che ci parve smisuratamente grande. Tra i rami più bassi dell'albero sopra le nostre teste c'era il nido. Fui molto felice di poter così facilmente porre in salvo il piccolo, ma dopo svariati tentativi di rimettervi l'uccellino ci dovemmo arrendere perché lui, sbattendo freneticamente le piccole ali, tentava il volo precipitando ogni volta goffamente al suolo. non vi era segno nel nido di altri merli della famiglia. Sul fondo si vedevano solo alcuni frammenti delle uova dopo la schiusa. Non sapevamo che cosa fare. Una bambina suggerì di andarsene e lasciarlo dov'era. Magari i suoi genitori sarebbero tornati e lo avrebbero in qualche modo aiutato. Io insistevo nel tentativo di soccorrerlo e supplicai le amiche di sdraiarsi sull'erba umida, scostate quel tanto che ci permettesse di vedere il luogo in cui il piccolo merlo si era acquattato, senza farci scorgere. Attendemmo ferme e pressoché in silenzio per un tempo che ci parve molto lungo, ma niente accadde. Non si avvicinò alcun adulto della sua specie. A me il piccolio sconsolato sembrava ora molto più flebile e pensavo: sta morendo di fame e se non sarà per fame finirà mangiato da qualche predatore. Decidemmo alla fine di portarlo con noi. Lo raccolsi e con il bordo della maglietta composi un piccolo marsupio in cui si rannicchiò senza dare segni di panico. Per l'intero percorso, badando bene a dove mettere i piedi per non ripetere la caduta, procedevamo parlando poco. Io rimuginavo in cuor mio foschi pensieri, immaginando che l'accoglienza di mia madre sarebbe stata delle peggiori. Tornavo a casa in ritardo per il pranzo, sporca di fango e verosimilmente di cacca di merlo, e con il nuovo ospite da alloggiare, poiché, essendo stata la più insistente nel prendermene cura, era chiaro che la sua sistemazione sarebbe diventata affar mio. Ciò avrebbe potuto essere un problema di poco conto se non vi fosse sempre stata a casa mia, da quando avevo ricordi, una specie di lotta continua tra me e mia madre. Il mio amore per gli animali mi poneva assai spesso nella situazione in cui mi ero appena cacciata, e quindi innumerevoli erano stati i cuccioli che avevo accattato, spinta dalla mia innata compassione. Ciò innescava frequenti liti con mia madre, che mi accusava di voler trasformare la nostra casa in un assurdo piccolo zoo. Ad aggravare le posizioni materne, che non si scostavano granché da quelle della maggior parte delle madri di mia conoscenza, vi era il fatto che la mia era affetta da una forma maniacale di attenzione per l'igiene, tale da indurla a scorgere pericoli d'ogni genere provenienti dai microbi che mi avrebbero assalita nel mio contatto con ogni sorta di bestiole. Una volta giunta a casa, la situazione si rivelò migliore di quanto mi fossi attesa. Dopo gli inevitabili rimbrotti mi fu permesso di adottare il piccolo, forse perché mia madre pensò che non avrei potuto instaurare pericolose promiscuità. Un uccellino se ne sta in gabbia e non avrei preteso di portarmelo sul letto come un cane o un gatto. Non mandava un terribile olezzo come i porcospini, né incuteva ribrezzo come le ranocchie. Per 3 giorni mi sottoposi a una specie di lavoro forzato, perché il mio piccolo amico sembrava aver bisogno di cibo ogni 10 minuti. Il problema non era solo sfamarlo, ma reperire ciò di cui un merlo si nutre. Con grande riluttanza e fastidio andavo cercando nel nostro giardino vermetti e lombrichi che dovevo poi tagliuzzare per riuscire a farglieli inghiottire. Mi fu consigliato di dargli pappe di farina di gran turco, torlo d'uovo e radicchio tritato che io mi affrettai a preparare. Lui sembrava stare bene, aveva cominciato a fischiare, ma una mattina, prima di andare a scuola, lo trovai steso sul fondo della gabbietta con gli occhi chiusi e senza vita. Piansi sconsolata mentre la voce di mia madre mi ripeteva: «Te l'avevo detto, dovevi lasciarlo dove l'hai trovato. Quando la smetterai con questa mania di portare a casa ogni bestia che incontri?» Con le amichette quel pomeriggio inscenammo il rito funebre con tanto di litanie e processione in giardino. Lo seppellimmo sotto un cespuglio di rose non ancora in fiore. Sul cartoncino infisso al suolo stava scritto: «Qui giace Chip Marino, colpito da morte prematura». Mia madre, che non aveva mai posseduto senso dell'umorismo né intuizione psicologica alcuna, mi obbligò a cancellare dall'epitaffio almeno il nostro cognome. È una storia vera? Sì. Oh. È vero, è vero. Infatti la storia è bellissima. Insomma, ha voluto cancellare Marino. Ho dovuto farlo. Non c'era molta appunto, l'elasticità materna non è granché. Una volta, sì, beh, sai. Si sentiva offesa. Erano probabilmente nell'essere accomunate a un merlo. Probabilmente non è che amasse tantissimo gli animali. Boh, amava i cani, ma sì. Il suo cane non era certo come me, che aveva una specie di mania terrificante per portare quanti a casa gli tu animali. Cani? No, io ho avuto 5-6 cani nella mia vita, adesso però ho 4 gatti. Ah, ecco, gatti. Sì, iscritti proprio sull'album di famiglia e un randaggio che manteniamo, e quindi sono 5. Mi sa che a ogni gatto hai dato un nome. Eh beh, certo. Sono tutti maschi o anche femmine? No, 2 maschi e 2 femmine. Ah, vanno d'accordo tra di loro? Sì, sono state abituate. Tranne il randaggio che non solo mangia e dorme alle nostre spalle, ma pure picchia i miei gatti maschi. Ah, quando li vede passare. Che sono i gatti maschi? Allora, prima di farle ascoltare un'altra canzone, vorrei leggere una poesia che a me piace tanto, sempre di Mariella. Nonna. È stato più difficile per me inventare le parole con cui cullare i tuoi sogni agitati. Tu non mi tenevi più per mano. Ci eravamo rovesciate. Io, forte e grande, tu bambina. Impastavi ricordi in disordine dalla tua mente prigioniera e i miei primi passi, rapidi e maldestri, finivano in quel ciabattare incerto, in quel tuo vacillare pietoso che si aggrappava con ansia al mio braccio. Nonna, madre, sorella, amica. Quando hai indovinato la crepa spalancata davanti, ti sei consegnata, dopo aver gettato il cuore e la mente altrove. Molto bella questa canzone, questa poesia, molto molto. Bene, andiamo, ci ascoltiamo una canzone, la terza canzone in programma, che è cantata da Jimmy Fontana ed è intitolata La nostra favola. Sì, io chiamavo Eccoci di nuovo in studio con Mariella. Sai Mariella che mi ha colpito moltissimo, sarà perché così forse in questo periodo l'ho provato un pochino e mi è rimasto proprio impresso il tuo racconto depressione. Sì. Io immagino che tanti avranno provato dei momenti più o meno lunghi nei quali non si sapeva, ti subentrava quella, come si chiama, quell'apatia, quel desiderio di stare a letto inerti, ecco, qui dice di fatti che quello che più, tu parli di una donna che è arrivata a una certa età, da settimane soffocata, diciamo, perché da questa depressione che è quello che lei proprio odia di più, che gli ha privata di tutti i desideri. Lei che appunto era amante della lettura, anche quello sì. Ormai non le piaceva più, prendeva un libro, lo apriva, poi lo leggeva un attimo, dopo lo metteva e lo ritrovava al posto dove l'aveva lasciato, non certo. Aveva più. E spesso si chiedeva: ma io che cosa voglio? Già. A forza di chiedersi che cosa voglio, le tornarono alla mente poche parole lette in un bellissimo libro qualche mese prima, pronunciate da un ragazzino infelice. Il libro è Il cacciatore d'aquiloni. Sì. Che dice, che si domanda: ma che cosa voglio? Ma lui a questa domanda dà la risposta: voglio indietro la mia vita di prima. E anche lei voleva in fondo proprio questo, voleva indietro la famiglia di origine che il tempo aveva dissolto, voleva essere ancora amata come quando era stata bambina, voleva poter ancora credere di migliorare il mondo, voleva avere tante persone che attorno a cui dare e da cui ricevere gioia, voleva stringere a sé i figli piccoli, bisognosi dei suoi gesti. Voleva che l'amore, gli affetti, le amicizie non invecchiassero perdendo, come il suo volto, freschezza e vigore. Voleva non temere l'evolversi delle situazioni e il passare dei giorni. Guardate che è veramente vera questa cosa qua, perché succede che quando sei depresso hai paura di che appunto che il tempo passa, hai paura di tutto, insomma, diciamo, ecco. E a un certo punto lei non sa cosa fare, decide appunto di telefonare, ma poi dice: no, non telefono, perché la gente non vuole sentirsi dire, che stai bene, vuole sentirsi dire che hai raffreddore, magari per darti dei consigli, però quando tu parli di depressione la gente non ti capisce, oppure così, tanto per condivide insomma quello che tu hai, insomma, però più che altro per egoismo, insomma, così. Cioè, questo condividere tante volte è così un non sapere cosa dire, dice: ma sì, anch'io, è vero, Mariella, che è così. È vero, ma anche perché io penso che non sia facile dare consigli a un depresso, in effetti, è più facile curare il raffreddore. Decisamente. E quindi lei appunto non rinuncia a telefonare, sì, ormai dice: mi chiameranno, e ogni volta appunto, anche se sentiva il bisogno di parlare con qualcuno, di sfogarsi, però finiva sempre con telefonate banali, parlare del tempo. è vero, anche perché ci si nasconde automaticamente un po', no? Secondo me. Quindi lei passò mentalmente tutte le azioni che avrebbe potuto compiere per aiutarsi a sentirsi meglio, ma il suo repertorio era tragicamente povero. Ecco, qui mi piace. Le avrebbe dato un sostanzioso sussulto di gioia che suo figlio, per esempio, le telefonasse per dirle: mamma, ti voglio bene. O che la figlia, tornando da scuola, l'avesse abbracciata dicendo: mamma, sono felice. Ma a parte l'impossibilità che simili eventi accadano, sapeva bene che non doveva dipendere dagli altri. diventare quasi una cosa in balia dei gesti altrui. La sua forza la doveva cercare dentro e non al di fuori di sé. Qui stava il nodo. Ripensò a se stessa quando, adolescente, grintosa e poi giovane donna, entusiasta, piena di coraggio, si era sentita mille volte una specie di moderna Giovanna d'Arco. Ed ebbe pietà nel ritrovarsi ora nei panni di un Don Chisciotte grottesco e inutile. E allora si domanda, ma qual era la via per smettere di inseguire i mulini a vento? Ecco, mi ha colpito molto questo racconto, perché sì, non sono stata a leggerlo tutto, però insomma racconta tutte le fasi che questa donna vive nella distruzione interna di quello che... E lei vorrebbe appunto tornare bambina ed avere quello che aveva una volta, ma queste cose sono impossibili. Ecco, lei desidera essere tornare bambina, Mario un altro desidera, non so, tornare alla giovinezza. Cioè, ognuno di noi poi... Ognuno ha i suoi sogni. Ecco, sì, solo che purtroppo... E bisogna sapere distinguere la realtà dal sogno. Diventare adulti penso che voglia dire anche questo. Sì, perché io penso però che un po' bambini si resta dentro. Beh sì, è ovvio. Una parte, no? Diceva Pascoli, il fanciullino, sì, che fanciullino c'è in noi, che è anche utile in certi, sì, per certe ben, cose, certo, ovviamente. Perché... Anche... Basta che non diventi una posizione patologica. Ma io penso che più che altro si hanno in certi momenti. Sì, certo. Sì, è questione che la depressione purtroppo è una malattia subdola, come si diceva prima, però è recidiva. Anche, sì. Comunque io auguro a tutti di non provarla mai. È un augurio condivisibile. Sì. Comunque, bene, allora leggiamo un'altra poesia. O tu che racconto hai? Beh, io avrei un racconto che potrebbe essere potenzialmente, senza voler naturalmente avere la verità rivelata, un antidoto a questo tipo di malattia, di disagio profondo, con una passeggiata in Consiglio. Ah vabbè, dai, leggiamo questo. Per ritrovare se stessi, per esempio. Si inoltra nel bosco. La breve e ripida erta che le si para davanti la fa già ansimare un poco. E i piccoli massi ricoperti qua e là di umidi muschi le appaiono subito come ostacoli fastidiosi. La vita di città e gli anni accumulati legano i movimenti, le suscitano stizza quei muscoli che non rispondono più agli ordini della sua volontà. I grandi faggi si aprono sul sentiero in salita, i loro grigi tronchi slanciati e forti popolano come un esercito infinito il paesaggio intorno, e le chiome superbe volte verso la luce le infondono rassicuranti certezze sul fatto che, finché saranno così belle e numerose, il mondo non avrà perduto la speranza di sopravvivere. L'odore del sottobosco risveglia ricordi di altre lontane passeggiate infantili, zeppe di scoperte, di corse, giochi, risalite affannate, guance rosse per lo sforzo, abbandoni sull'erba bagnata delle radure. Gli odori, custodi instancabili dei nostri ricordi. Sorride appena, presa come si sente tra gioia e rimpianto. La figlia, ancora piccola per essere lasciata sola, le arranca lamentosa accanto. Per lei, unica bambina in un gruppetto di adulti, la salita non riserva nulla di bello, non ha ricordi da riscoprire, né avventure allettanti davanti. E protesta tutta la sua insoddisfazione per una giornata di cui scorge solo la fatica e il sudore. Lei le prende una mano e cerca di trascinarla e consolarla allo stesso tempo, e intanto resta indietro. Guarda le sue amiche allontanarsi nel verde e poi, ad una curva, scomparire alla sua vista. È ridicolo, ma sente una fitta di contenuto dolore, una piccola punta di delusione, e anche facendo appello alla ragione, non le riesce di dissipare quel senso di solitudine che ci crea l'abbandono. Con quei ragazzi di un tempo lei aveva sognato di vivere e condividere ogni gesto, emozione, gioie e dolori dell'intera esistenza. L'amicizia tra donne, che è un universo speciale che si può vivere solo al femminile, almeno questo è ciò che pensa lei, era tanto saldamente radicata nel suo cuore da apparirle perfetta. Ed ora, ad ogni nuova curva e ad ogni slargo di alberi le intravede, la precedono sempre più lontane, parlando tra loro senza mai volgersi indietro. Ha l'impressione che non notino neppure la sua assenza, che non abbiano bisogno di lei. Il fitto della faggeta si sta aprendo su pascoli aperti. Ai lati del sentiero sottili fili spinati segnano il limitare di proprietà. Gli odori mutati adesso rimandano ricordi di stalle, fieni masticati lentamente, occhi languidi di ruminanti domestici, sterco secco di mucca che lei, bambina, assieme ai compagni di giochi, trovava divertente scavalcare in agili saltelli. Anche ora si vedono, riemersi dalla neve disciolta della recente primavera, i larghi cerchi marrone a testimonianza dell'alpeggio dell'anno scorso. Lei ammicca la figlia e, riprendendola per mano, rifà il gioco della sua infanzia. Riesce a farla sorridere in questo scavalco delle cacche di mucca che per la bimba, cittadina da sempre, è abbastanza raro. La risalita è più dolce, si cammina più spediti e le gambe le sembrano meno pesanti. Suo marito si è fermato sul colmo della dorsale, indirizza loro un cenno come a incitarle a raggiungere il gruppo e fa un fischio alla mandriana prima di scomparire oltre il dosso. Il calore della mattinata inoltrata ha svegliato infinite creature volanti e miriadi di insetti svolazzano loro intorno. Guarda, amore mio, le due farfalline che si accoppiano. E figlia e madre recitano a una voce la nota tiritera di un bel libretto infantile che le accompagnò per anni. Oggi si sposano due farfalline, volano insieme vicine, vicine. La bambina ride buttando indietro la testa, facendo così dondolare la nuvola soffice e dorata dei suoi capelli. Lei la guarda pensando quanto ama questa sua figlia e nuovamente una punta di malinconia l'affligge. Per quanto ancora staranno così vicine, quanto manca lo spiccare del volo. Rivede l'altro suo figlio. Stanno tornando verso casa dall'ospedale dove è nato pochi giorni prima e lei, rammenta come fosse adesso, lo sta guardando steso nella sua cestina e mentre la sua piccola, deliziosa mano stringe istintivamente l'indice della madre in un aggrapparsi irrinunciabile, lei lo osserva e pensa che d'ora in avanti non vi sarà mai un giorno della sua vita senza che lui le abiti il cuore e ne è felice e spaventata insieme. Adesso è cresciuto, non ha più bisogno di tenersi forte a lei. Si amano ancora, ma percorreranno sentieri sempre più lontani. Sono giunte anche loro due al colmo del pascolo tra sbuffi e lamentazioni della bambina. Ho caldo, sono stanca, ho sete, ho fame. Si apre loro davanti la bella piana della malga verso cui sono diretti. Alla loro destra la boscaglia si è ricomposta, fitta e imponente. A sinistra la valle sprofonda declinando verso l'abitato. Case, strade, corsi d'acqua in lontananza si avvolgono in nebbioline azzurrate che ne lasciano solo indovinare i contorni. I volteggi lenti di due cornacchie salutano i passanti insieme al sole che dardeggia ormai alto nel cielo. La strada ora è in discesa e la bambina le si stacca per correre agile verso il verde dei prati intorno alla malga. Non è l'odore buono di legna al fuoco né il cibo goloso che l'attende a farla volare in basso. Ha scorto da lontano il grande, magnifico faggio su cui arrampicherà, come ogni anno, per essere accolta dalla maestosa ospitalità dei suoi rami. Il vecchissimo tronco tarchiato, ricco di spaccature e anfratti, si offrirà docile al suo scalare e lei dominerà dall'alto la prateria sottostante appena mossa dal vento. Licheni e muschi abbarbicati ovunque sul lato a nord rendono più morbido il legno, conferendo all'intero albero il carisma che ci si attende dal vecchio saggio delle tribù ancestrali. Le voci degli amici si levano dalla bassa costruzione dove le stanno attendendo, chiamandole con insistenza. «Dobbiamo andare, tesoro!» Li guarda e sorride nonostante si renda conto che da quella distanza loro non la possono scorgere. Li saluta con la mano ed è felice della presenza di tutti loro, anche se non sa né quando e neanche se troverà il momento per farglielo sapere. Bello anche questo, molto bello, molto bello. Beh, ci ascoltiamo l'altra canzone, anche questa è molto dolce come canzone, Come dolce la sera, cantata da Marisa Sannia. Un soffio e poi non posso più prenderti, quella foglia che Oh, eccoci di nuovo in studio e adesso leggiamo qualche poesia, Antonio. Sì, madre, insondabili i percorsi del nostro cammino quando si aprono in voragini tragiche sotto i nostri passi incerti e tremendi gli schianti a cui dobbiamo sopravvivere. Oggi è finito il dolente travaglio che ha liberato il figlio, ma le tue braccia resteranno vuote. Continuerai a cullarlo ugualmente, questo tuo fiore spezzato, finché la promessa non vi vedrà di nuovo abbracciati, per sempre. Bella. Ma io ne leggo una d'amore, dai. Io non so. Io non so se sia stata la carezza infinita delle tue mani, o i tuoi occhi indicibili, o la potenza delle tue parole. Se sia giusto cercare i cari abbandoni al tuo corpo, io non so. So che vedo la crosta dura che serrava il mio cuore cadere. Forse è stato il coraggio che hai tu, o i fiumi di baci, o il bisogno che abbiamo di noi, oppure l'amore. Paese mio, resta ancora bello il paesaggio, fermo all'apparenza nel tempo del mio paese. Niente sembra cambiato e potrei pensare ad un miracolo incrociando tanto numerosi volti della mia gente. La sartina timida, il fabbro magro e alto come un ferro battuto, la vicina mezzo infermiera, il ragazzo burbero un po' villano che mi mette paura nei forzati incontri tra strette vie e solita piazzetta. La bimba scivolata dal muretto nell'acqua del torrente, la cara maestra di innumerevole gente. Se non fossero tutti qui, immoti e sorridenti, nel silenzio pacifico di questo giardino. Bella. Sono belle queste poesie, proprio... Grazie. Come ti sei ispirata? Perché specialmente queste poesie, anche quelle d'amore, sono bellissime. Appunto, quelle d'amore. Vedi, tutto il tempo lo dice già un po' il titolo. Cioè, è un po' il tempo della nostra vita, sì, no? Sì, escludendo l'infanzia, l'adolescenza e escludendo il tempo che ancora mi manca. Quindi c'è questo arco, no? Che va dalle speranze... di una ragazza così che si innamora ma che non trova ancora l'amore giusto, poi l'amore giusto trovato e poi però si cresce, si invecchia, ci sono gli addii eccetera e qui c'è tutto qui, questo percorso un po'. Adesso che progetti hai? Hai qualche programma? Sì, io ho cominciato, la prima cosa che ho scritto proprio con l'intenzione che fosse pubblicato è un piccolo romanzo che è sulla vita di una bambina finché diventa adulta, che sono proprio io, cioè molto molto autobiografico. Non è mai stato fatto l'editing in modo serio, adesso mio figlio lo sta terminando e speriamo che me lo dia finalmente. L'hai già scritto? Sì, sì, l'ho scritto, l'ho terminato 10 anni fa. E speriamo di poterlo appunto stampare anche quello. Poi ho scritto poesie? Ancora... sì, poesie ne scrivo sempre, quindi ne ho parecchie. Dopo anche lì bisogna scegliere perché ovviamente la poesia è molto più intima che la prosa e quindi non tutte le poesie possono essere pubblicate. E poi magari un'altra piccola così raccolta di racconti potrà forse... Insomma, hai un buon futuro davanti. Spero, grazie. Sì, insomma... Visto che ho riscontrato abbastanza così, direi proprio non manca l'ispirazione, applauso, diciamo. Ecco che mi sono piaciute queste cose, posso anche continuare. Ma devi continuare. Grazie. Sì, insomma, ma anche i racconti veramente. Tu dicevi prima che 2 racconti li hai scritti per essere pubblicati, cioè per essere... Sì, nel senso che io ho scritto sempre tutta la mia vita veramente con l'idea di scrivere per me stessa, non è un modo di dire. E quindi i racconti brevi erano scritti così per il gusto mio di farlo. Per il gusto tuo di scrivere, esatto. Sì. Poi qualche racconto è andato invece sul Caffoncello, che è la rivista dell'ospedale, perché mio marito, che è un valente fotografo, aveva le fotografie e bisognava scrivere qualcosa che accompagnasse le foto. È allora un valente cardiologo. Grazie. Così è nata l'idea appunto anche di scrivere apposta per la pubblicazione, e i racconti più lunghi sono stati scritti apposta per il pubblico, non per me. Ah, ecco, che sarebbe una cosa senza importanza. E un altro che abbiamo parlato prima, abbiamo accennato. Senza anestesia. Senza anestesia. È un dissapore praticamente. Quasi ospedaliero. No, se non leggerà, vedrà che non c'entra l'ospedale. È tutta una cosa diversa. Sì. Esatto, niente così. Però il tempo a nostra disposizione, quando arriva un certo momento, ahimè, è sempre troppo veloce. Ma insomma, quello che si ha da dire, evidentemente, poi c'è un overflow, diciamo, come sì, dicono, certo. C'è un che va per sora, nel senso che come il latte, come in latte, esattamente. Abbiamo cercato di dare un saggio, spero abbastanza esauriente, estrapolato qualcosa. Un po' di allegro, insomma, un po' di ameno, e cioè, uno non potevo fare a meno di citare quel racconto che ho citato prima. Fa parte della vita, esatto. E quindi la vita ha tutte le sue sfaccettature, certo, belle e anche meno belle. Ovvio. Bene, Mariella, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie per la visita. E allora fai presto, che poi sarai ancora ospite, a Dio piacendo. Mi date i compiti per casa? Ti diamo i compiti per casa, sì, sì. Volentieri. Grazie, sì. Ecco. Arrivederci a tutti. E grazie a te. Buonasera. Antonio? Niente, noi siamo sempre chiaramente grati quando ci sono ospiti così profondi e così, come dire, prodighi di sensazioni, di emozioni, di sentimenti. E questa è, credo, la nostra forza, quella che ci consente di andare avanti sempre. Certo, i valori della vita sono quelli che ci consentono di andare avanti. Esattamente. Bene, allora io, come al solito, assieme ad Antonio, a Mariella e al nostro caro regista Eddie Daici, auguriamo una serena e buona notte. Ciao! Buonanotte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.